fossi yo, y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Io ieri sono rimasto abbastanza colpito dal signore che a tutti i costi voleva provarmi l'esistenza di un noto mito metropolitano che è quello degli amanti trovati attaccati e portati al pronto soccorso. Di fronte alla insistenza nel dimostrare ciò che, di cui lui non aveva assolutamente nessuna prova diretta, ma soltanto un sentito dire, mi è venuto in mente che esiste tutto un racconto della nostra contemporaneità che galleggia ormai da vari decenni a metà tra quella che è la storia ufficiale, la storia conclamata, la storia perlomeno condivisa e il puro fantasticare, il puro mito. È fatto di una serie di verità non dette o scritte ma rinnegate e considerate da una sorta di girone di adepti quasi come una lettura in sottotraccia di ciò che i grandi potentati della terra non vogliono far sapere. Io ricordo che alla base di questo sapere esiste un libro che da bambino leggevo con grande attenzione e anche tutti quelli che seguirono, che era Non è terrestre di Peter Colosimo, uscì nel 69. Questo signore Peter Colosimo, che in realtà era nato a Modena e aveva vissuto tanti anni a Colosimo che è un paesino della Calabria, è l'inventore della fantarcheologia, una persona che aveva molto studiato, sapeva diverse lingue, era stato anche in tempo di guerra militare tedesco perché stava a Bolzano in quel periodo, insomma con una curiosità e un'intelligenza molto eclettica aveva fondato quel filone di pensiero perlomeno in Italia per cui le piramidi sono state costruite dagli extraterrestri, i cerchi nel grano hanno origini misteriose, i Moai dell'isola di Pasqua sono dei monoliti in pietra che nessun essere umano potrebbe spostare se non attraverso alcune tecniche segrete che soltanto gli abitanti dell'isola di Pasqua conoscevano, che ovunque nei tracciati, mi ricordo, di piramidi azteche ci sono rappresentazioni di esseri umani su astronavi, ma andando ancora avanti che dietro molti episodi della mistica popolare, degli stigmatizzati, delle statue sanguinanti, esistono sempre dei fenomeni legati a una sorta di civilizzazione avanzatissima che in un certo periodo della nostra era terrestre è arrivata su questo brullo pianeta abitato da poco più che dei bruti e ci hanno insegnato alcune nozioni di sopravvivenza, dopodiché se ne sono andati o perlomeno come in certi film di fantascienza giacciono nascosti nelle visce della terra per riemergere il giorno in cui dovranno nuovamente dimostrarci la loro esistenza. Ecco, da questa base che io ho poi molto rozzamente raccontato, esistono varie e mirabolanti derivazioni parallele di cui il grande Giacobbo, vero divulgatore della fantarcheologia televisiva, è un grande maestro. Ritroviamo connessioni fra templari, santi graal che riemergono e riscompaiono, sette segrete, grandi potentati, insomma quello di cui poi il signor Dan Brown ha fatto la fortuna della sua esistenza, ma che comunque alimenta questa sotterranea maniera di credere che esista una parallela lettura della storia. Ecco, la domanda vi faccio questa mattina: quanto voi siete fortemente legati, affezionati a questa moderna mitologia, che non voglio chiamare mitologia in senso dispregiativo, comunque fa parte del nostro vivere quotidiano, fa parte della nostra moderna epica, quindi non la disprezzo, semplicemente voglio analizzarla e sapere quanto è visceralmente nell'esperienza e nella credenza di ognuno di voi. 800240024, quanto siete convinti che questo sia vero? Nel sud dell'Inghilterra, da alcuni decenni, si manifesta un incredibile fenomeno, affascinante e sconcertante allo stesso tempo. I cerchi nel grano. Ma negli ultimi anni il mistero si è infittito. Sui campi di grano hanno cominciato a comparire inquietanti figure maghe. Chi o che cosa potrebbe disegnare questi pittogrammi con riferimenti che mettono insieme passato, presente e futuro? Il messaggio trasmesso da queste affascinanti figure potrebbe avere un grande valore per l'umanità. E se si trattasse di un nuovo tentativo di comunicazione? La chiave è questa, ma poi ve ne potremo dare tante altre. Anche voi magari sarete così bravi a telefonarci, a suggerirci quali sono gli spunti che voi avete colto nel corso della vostra esistenza, della vostra educazione ufficiale, perlomeno attraverso le fonti ufficiali, che esista una storia non raccontata, oppure una storia che è palese, sotto gli occhi di tutti, perché ne sono piene tutte le edicole di tutte le stazioni d'Italia, e ne sono piene tutte le librerie misteriosofiche, ce li vendono per strada, è stato un filone ricchissimo di narrazione televisiva, ma ancora una gran parte delle televisioni commerciali vivono sul fatto che alcuni signori vendano sortilegi egiziani, tarocchi talmudici, chiavi di soluzione di ogni problematica attinte dalla più profonda sapienza sconosciuta ai più. Beh, se è così tanto sconosciuta, così lontana nei tempi, così arcaicamente nascosta questa conoscenza, devo dire, non ha mai avuto un momento di maggior gloria come nell'epoca contemporanea. Il trionfo della razionalità in realtà ha determinato una fuoriuscita di tutto ciò che potrebbe essere credibile. 800240024, fino a che punto arriva anche per voi l'universo del probabile? Esisteva un popolo che possedeva conoscenze profonde, un popolo i cui messaggi sono stati tramandati nel tempo, un popolo le cui profezie hanno cominciato incredibilmente a prendere forma. Sono i Maya. L'eterno fascino del mistero avvolge la profonda conoscenza di questa antica civiltà. Il calendario Maya è conosciuto e studiato da decine di ricercatori. I Maya erano convinti che il tempo fosse ciclico. Ogni 5125 anni terminerebbe un'era, aprendone contemporaneamente una nuova. Un evento che, secondo alcune profezie, si compirà nuovamente il 21 dicembre 2012. La meraviglia che poi la fantarcheologia o la misteriosofia da edicola di stazione è un grande mixage di cose reali, concrete, accertate, di scoperte archeologiche, unite insieme con tabulati magici e misteriosi tratti da cronache medievali, da antiche tradizioni orali, messe insieme poi con l'astrologia, con le profezie. Immaginate quante profezie sono state fatte sul susseguirsi dei papi, la monaca di Dresda, Nostradamus che ogni tanto riappare. Ecco, tutto questo viene messo in un grande calderone e sembra si trovano delle corrispondenze tra tutti questi eventi e delle chiavi di risoluzione, dei percorsi serpeggianti, per cui improvvisamente ci si sente in grado di poter leggere la storia dell'umanità attraverso una traccia diversa. Antonino, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, grazie perché mi permettete di esprimere il mio parere a proposito di questi che potrei chiamare complottisti, dietrologi, storici paralleli. E io sento parlare da anni di extraterrestri, di astronavi che scendono sulla Terra, di scie chimiche, di templari, di OGM, e questo non è a caso, perché c'è gente che utilizza queste favole, queste dicerie, e le probora di prove secondo loro inoppugnabili, ma indiscutibili, perché sono prove che non possono essere provate, sono ipotesi, non sono teorie. La teoria propone un'ipotesi, la dimostra e quindi diventa valida, può essere comunque contestata, ma queste sono solo ipotesi. Però sfruttano, vendendo libri, pubblicando CD, producendo trasmissioni radiofoniche e televisive, la credulità e la voglia degli adulti di sentirsi raccontare le favole che ascoltavano da bambini. Guardi, posso dire una cosa? Diciamo che tutto questo universo fantastico è diventato anche materia prima di una grande e meravigliosa narrativa cinematografica, quindi in fondo io sono anche grato a chi fa questo tipo di assemblaggio, perché ci sono dei videogame meravigliosi di Lara Croft che sono tutti basati su questa prosperosa archeologa che va alla ricerca del martello di Thor. Io, perché sto vedendo l'ultimo gioco che sta facendo mio figlio. Posso dirle una cosa, Nicoletti? Sì. Che questa gente, per avvalorare le loro ipotesi, fanno un'operazione estremamente scorretta, cioè demonizzano e avversano la scienza ufficiale, attribuendole degli interessi che risalgono una volta ai governi, una volta alla CIA, una volta alle multinazionali, una volta alla Monsanto e poi chissà a chi. Ecco, la loro operazione consiste nella demonizzazione, ridicolizzazione e sospettizzazione, suspicion, della scienza ufficiale, per poi dire: siamo noi che vi diciamo la verità, quella che nessun altro vi vuole dire, e vendono libri, e pubblicano DVD, CD, e raccontano. Guardi che però la verità è sempre stata una grande merce molto appetibile quando viene messa nel mercato. Tutti coloro che vendono verità in realtà usano lo stesso meccanismo. Esiste una lettura falsa della realtà, noi vediamo la lettura vera. Aveva una mancanza di ferro e non riusciva a scincin di nessuna maniera. Tutti i giorni, io proprio gliel'ho detto, fammi sta cortesia. Un giorno mangia i fagioli, un altro giorno mangia i lenticchi. Insomma, tutta la settimana, tutta a base di ferro. Dopo un mese ha fatto le analisi, guarda, tutto bene, però i fagioli erano quelli là freschi che ci deve pigliare proprio in mezzo a terra. No, quelli là che vendono confezionati o esce. Beh, addirittura figurati, gli facevo i succhi di fagiolo, sai che cos'è? Facevo bollire il fagiolo, no? I fagioli. Poi il liquido, tutta la polpa, cioè lo scarico del fagiolo, ci faceva una bottiglia di 2 litri. Per esempio, poi si ci fa vivere l'acqua, ci faceva vivere che lullà. Questo è il mago Gennaro che racconta in televisione la sua formula per far rimanere incinta una donna, dandogli appunto una sua mistura di fagioli, che immagino che abbiano la funzione di far comunque gonfiare il ventre di questa donna, ma assomiglia all'esito molto a una gravidanza isterica, naturalmente. Ma che vuol dire? Nel momento in cui la donna si vede gonfiare la pancia, probabilmente paga il mago Gennaro, e il mago Gennaro ha raggiunto il suo scopo. Avete visto? Si passa da riletture molto superficiali, di quelle che sono le scritture, le saghe, le leggende, la storia sacra, i libri di storia ufficiale, cui vengono messe via via commissioni, riletture. C'è sempre una grande improvvisazione, ci sono sempre dei pensionati che parlano aramaico, ci sono sempre delle ex bidelle che parlano le lingue dei popoli perduti, ci sono sempre degli ex parroci che conoscono il latino. Insomma, c'è sempre una maniera di trovare la formula segreta, la rilettura, la chiave esoterica di ogni fenomeno. La loro presenza è avvertita in ogni angolo del pianeta. Oltre 130 segnalazioni nell'ultimo anno solo in Italia, 30 a Roma, 25 a Torino, 15 a Napoli. Solo suggestioni o tutte invenzioni? Oltre 1000 foto scattate da esperti e dilettanti. Vedremo immagini scattate nel corso di esperimenti e fotografie nelle quali ci sono cose che non ci dovrebbero essere. E questi sono i fantasmi. Di fantasmi c'è anche un meraviglioso programma su Sky, dove c'è un medium che viene sempre portato di notte, sempre con delle riprese misteriose, in delle case vuote, e a un certo punto lui va in estasi, sente i fantasmi, li vede. Immaginate che la tecnologia di riproduzione fotografica, ne parlammo qualche giorno fa, sin dai suoi albori, era usata per provare l'esistenza di mondi paralleli. Venivano fotografati gli ectoplasmi, che poi erano sempre dei banali e rozzi trucchi fotografici alle spalle del medium, sempre impettito e serissimo, o con gli occhi fuori dalle orbite e arrovesciati per l'estasi mistica. Apparivano sempre queste sovrapposizioni in trasparenza di signore con abiti datati di epoche, di altre epoche, che erano i fantasmi, gli ectoplasmi. Beh, su questo naturalmente ecco, questa invece è la realtà. Come avete visto, la realtà è certificabile, la realtà è qualcosa di concreto, è qualcosa di osservabile, qualcosa che può essere osservato dall'inizio del suo manifestarsi fino al suo svolgersi. Speriamo che la notizia poi abbia esiti il meno cruenti possibile. Però noi stiamo parlando in realtà di notizie che non hanno basi certificate, concreti, reali, scientificamente accertabili. Oggi è colpito da una tosse insistente, quindi anche lui probabilmente ammorbato da qualche influenza extraterrestre. Stefano Morigi, di passaggio a Roma, che ho preso al volo, e mi serviva un filosofo della scienza, Stefano, perché noi stiamo mettendo le mani in qualcosa di molto delicato. Per qualcuno rappresenta materia prima della propria attività turlupinatore, e questo è l'aspetto più colorito, più divertente, ma c'è chi ha per missione professionale il dovere di reprimere queste cose. Noi le guardiamo e possiamo essere soltanto divertiti dai fagioli che ingravidano le donne. D'altra parte però esiste e si alimenta una convinzione che tutto ciò che è ufficialmente conclamato in realtà non sia altro che una maniera per velare ciò che si è nascosto dietro la realtà che tutti conoscono. Beh, sai, lo spazio del credibile o del verosimile, ma è allo tempo stesso incontrollabile, è lo spazio della narrazione, della finzione, di cui tutti noi abbiamo bisogno. Purtroppo per coloro che amano crogiolarsi in questi spazi, la scienza è una medicina corrosiva, è una scrittura pubblica, rivedibile e controllabile. Rivedibile perché controllabile e controllabile perché pubblica. È quella scrittura che nel momento in cui si afferma è prontissima a mettersi in discussione e a essere completamente ribaltata. Queste narrazioni non lo sono, se lo fossero non sarebbero più rassicuranti. E la gente cerca più rassicurazione che una verità controllabile. Nella controllabilità c'è la minaccia più potente e profonda, quella rassicurazione che mitologie di ieri e di oggi ancora possono garantire. Ecco, c'è chi invece per vocazione esistenziale ha dedicato la sua vita proprio allo scoprire, allo sconfessare questi fenomeni, con una meticolosità veramente che gli fa onore. Uno per uno sono stati presi, analizzati, messi sul tavolo anatomico e dimostrata la loro inconsistenza. Costui è Massimo Polidoro, che è segretario nazionale del CICAP. Polidoro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Polidoro ci chiama dalla Svezia, perché sì, probabilmente sta indagando su qualche fenomeno paranormale che ha origine in Svezia. Voi compite 20 anni, quindi sono 20 anni che voi ci togliete ogni illusione, ogni speranza sui cerchi del grano, sulle madonne sanguinanti, sugli UFO e via dicendo. Vi sentite responsabili di una fetta del nostro immaginario che, ahimè, è naufraga e scompare? Ma in realtà il nostro punto di partenza è sempre quello di la speranza, diciamo così, sempre più elusiva, di trovare un giorno qualcosa veramente che superi, no, le verifiche, i controlli. E ormai appunto sono 20 anni che il CICAP esiste e che tutte le volte trova, ahimè, una spiegazione, ahimè da un certo punto di vista, ma da un altro ovviamente ci fa piacere magari scoprire che certe cose non ci sono, oppure che altre cose sono delle truffe, quindi vogliamo anche mettere in guardia il pubblico da questo tipo di... Ci dice le più clamorose scoperte rispetto ai nostri luoghi comuni, cerchi sul grano ad esempio. Cerchi nel grano è una di quelle cose che sono molto affascinanti. No, d'estate, ogni estate a giugno si parla di questi misteriosi disegni che compaiono nei campi di grano, soprattutto inglesi, da qualche tempo anche italiani o in altre parti del mondo. E sono un fenomeno recente, nel senso che prima degli anni 80 non esisteva. E poi si è scoperto, per farla breve in realtà, che sono delle persone a farli, no? Sono dei disegni molto belli, molto complessi anche ormai, e però sono delle persone che li fanno, li conosciamo bene, siamo andati con loro sui campi, abbiamo visto come fanno, abbiamo imparato a farli, e noi stessi d'estate ogni tanto ci divertiamo a creare qui in Italia dei disegni molto complessi. Ecco, ma perché lo facevano? Facciano credere ci fossero delle mappe extraterrestri nel grano delle campagne inglesi. Lo scopo qual era? Diciamo che era partito come uno scherzo, no? Come spesso tanti di questi fenomeni nascono come degli scherzi, nascono come così una cosa, una forma di divertimento, e poi sfugge di mano. Altri se ne impossessano, altri interpretano queste cose, gli attribuiscono delle qualità che magari chi l'ha inventato non immaginava. Allora c'è per esempio chi oggi crea questi cerchi pensando di in qualche modo richiamare delle potenze aliene, c'è chi invece lo fa perché fa parte di un rituale di tipo magari New Age, dove semplicemente il percorrere questi cerchi dopo averli fatti dovrebbe garantire chissà quali energie. E poi ci sono quelli che lo fanno come forma artistica, no? Una sorta di arte naturale, dove la forma d'arte poi si deperisce, come è naturale che sia, e scompare. Quindi noi abbiamo incontrato quelli che lo fanno dal punto di vista artistico e ci hanno spiegato come si fa. Appunto, dicevo, ogni tanto noi lo facciamo senza dire però che siamo stati noi, poi ci divertiamo a vedere sui giornali le interpretazioni più incredibili. Ci hanno anche fatto un film terribile, che poi c'erano degli extraterrestri cattivissimi che si mangiavano e squartavano tutti. Ricordo che il papà li uccide con la mazza da baseball. Polidoro, ci dobbiamo interrompere un attimo per dare la linea alle informazioni della borsa, ma riprenderemo con grande attenzione e grande meraviglia dopo appunto qualche minuto per sapere quali sono le credenze cui davamo noi, ahimè, grande motivo di esistenza, che in realtà voi avete sconfessato. Melog 2.0. L'isola di Pasqua, l'isola dei mille enigmi, minuscola, sperduta nel Pacifico meridionale. Esseri con corpi umani e teste di uccello. Ma sono teste di uccelli o lo sembrano solo agli indigeni? Forse il becco si riferisce a dei caschi muniti anteriormente di un respiratore. Secondo la leggenda, in tempi antichissimi, discesero qui degli uomini volanti che accesero dei fuochi. 800240024, stiamo raccontando le epiche contemporanee che attingono fondo dalla geografia, dall'archeologia, dalle scienze esatte e mettono in meravigliosa collisione con tutto ciò che è leggendario, fantastico, appartenente al dominio del mito. Mi stanno scrivendo su Facebook del Chupacabras, mostro con aculei avvistato spesso nelle zone del Sud America, che si succhia il sangue delle capre, del mostro di Loch Ness, dello Yeti, poi delle scie chimiche, poi i coccodrilli delle fogne, cos'altro c'è? Ce ne stanno tantissime. Molti dicono che in realtà queste cose hanno sempre fatto parte del carezzevole e nostalgico mondo delle leggende che ci aiutano a dimenticare che la vita è spesso spiacevole. Molti altri dicono che hanno sempre saputo e sono cose finte. Rimane disponibile un numero talmente piccolo di potenziali scalpellini che non avrebbero assolutamente potuto eseguire le oltre 600 gigantesche figure di pietra sparse per tutta l'isola. I colossi venivano trasportati fino a 20 chilometri di distanza. Non c'erano né schiavi né alberi per farne rulli di legno. Le leggende narrano che i colossi di pietra si muovevano da sé, grazie ad una forza misteriosa che solo due sacerdoti controllavano, ma che un giorno i sacerdoti scomparvero con il mana. E che cos'era il mana? Forse degli esseri di altri mondi sbarcati sull'isola disponevano di forze in grado di annullare la legge di gravità. Massimo Polidoro, segretario nazionale del CICAP, che è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale, che ci chiama, che è in collegamento con noi dalla Svezia. Ecco, su queste immarcescibili leggende della possibilità di sacerdoti dell'isola di Pasqua, ma come anche costruttori di piramidi, di smaterializzare gli oggetti pesanti per costruire questi megalitici monumenti, voi avete fatto qualcosa o vi siete limitati a osservare in silenzio? No, come no, ci siamo occupati di tutti questi casi naturalmente. Quello che si nota sempre da un lato deve essere probabilmente lo stupore di fronte a queste costruzioni straordinarie e l'idea che siano state costruite da persone che non avevano le nostre tecnologie per alcuni risulta inaccettabile. Allora si immaginano extraterrestri o altri esseri che devono arrivare per forza da fuori per aiutare questi poveretti, mentre in realtà appunto dovrebbe essere stupefacente capire con quanto ingegno, con quanta capacità sono riusciti a fare piramidi o a costruire qualunque altro monumento, come comprese quelle dell'isola di Pasqua di cui abbiamo sentito prima. Quindi ci siamo occupati più che altro noi di cercare di capire come sono stati fatti, per quello che è possibile capirlo oggi, e poi di smentire anche quelle che sono tutte le teorie più campate per aria, come la presenza appunto di extraterrestri nel passato e le presunte tracce del loro passaggio sulla Terra, no? Dalle statuine, dalle incisioni rupestri e così via. Ecco, sugli extraterrestri non c'è mai stato nulla che le ha lasciato qualche dubbio? E diciamo che quello è uno, non è tanto un fenomeno paranormale quanto piuttosto un'ipotesi anche non del tutto irrealistica, perché gran parte di chi studia la vita nello spazio, la ricerca della vita nello spazio, ritiene che da qualche parte nel cosmo per forza si dovrebbe essere sviluppata qualche forma di vita, proprio perché è così esteso, così vasto, e pensare che si sia sviluppata solo da noi come minimo è un po' uno spreco. Un po' diversa però è l'idea di pensare che questa eventuale civiltà extraterrestre non solo si è riuscita a costruire delle astronavi che viaggiano e superano la velocità della luce percorrendo distanze per noi inimmaginabili, ma arrivino da noi e poi giochino un po' a nascondino senza mai farsi vedere davvero, rapendo casalinghe e personaggi che poi scrivono libri bestseller, ma si mettono in contatto. Sento Polidoro, un fenomeno paranormale per cui la sua voce sta fluttuando, vediamo se riusciamo a riprenderla in maniera più decisa. Intanto sento Enrico fa parte di una fitta schiera di ascoltatori che sono rimasti indignati ieri dal mio scetticismo nei confronti di un mito metropolitano che anche per Enrico appartiene alla realtà. Enrico, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Premetto che anch'io sono un super scettico, non faccio parte di schiere che credono nel sub che è stato scaricato per sbaglio in un incendio da uno di quei palloni portacqua degli elicotteri, sono tutte anche secondo me super cavolate, però... devo dire che nel 1995 o 96, ora io abito a Milano, mi trovavo dove sono nato, appunto in Versilia, e in un locale, in un ristorante di Massarosa, poco lontano da Viareggio, provincia di Lucca, e successe uno di questi fatti che si diceva appunto che un uomo e una donna sono rimasti attaccati. Dentro il ristorante? Durante un matrimonio, dentro il ristorante. E cosa è successo? La sposa era rimasta attaccata, non allo sposo, è quello. Col testimone. Il fattore, non lo so, io ero poco distante a cena a casa di amici, però... E scommetto che dopo c'è stata una grande rissa in cui tutti gli invitati hanno distrutto il locale. Sì, sì, non è che è stato distrutto, ma insomma è stato fatto un po' di questo caos. È un mix di due leggende metropolitane, quella degli amanti attaccati e quella della sposa fedifraga, che è un'altra leggenda metropolitana molto nota. Ci sono anche noti film che su questo hanno ironizzato. La sposa, il giorno del pranzo di nozze, viene trovata in accoppiamento focoso con un altro invitato, diciamo un amante che ha sempre avuto, a cui ho dato l'ultimo regalo da Dio prima di partire per il viaggio di nozze. Naturalmente questo scatena una rissa fra parente, lo sposo e la sposa, che distruggono il locale. È meraviglioso, però anche questo è un mito leggendario, potrei raccontargliela di seconda mano da un mio cugino che l'ha vista a Rieti, però sa, fa parte di questo fantasmatico e meraviglioso universo al quale io non voglio rinunciare, ma mi dispiace dare una delusione, rientra in un fenomeno talmente ripetuto per poter essere minimamente accettabile. Stefano Morigi, su questa volontà popolare di dover per forza dare credito ad alcune leggende che in realtà forse in sé nascondono degli ammaestramenti o dei deterrenti comunque all'infedeltà, c'è sempre detto un adultero punito oppure no? Sì, ma ancora più profondamente io credo che queste narrazioni e la struttura narrativa che le costituisce, che è fatta ora dell'enigmatico, ora del prodigioso, ora del miracoloso, dicono molto sull'idea di scienza che c'è tra le persone. Si immagina che la scienza sia un monolite. Quello che la scienza riesce a spiegare è vero, quello che la scienza non riesce a spiegare è il miracoloso, il prodigioso. Ma la scienza non è un monolite fermo nel tempo, è una scrittura che, come si diceva prima, fa i suoi progressi, sbaglia, si ricorregge, e quindi quello che non si poteva spiegare fino a un certo periodo di tempo lo si è poi potuto spiegare dopo un certo periodo di tempo. Quindi non bisogna confondere l'inspiegabile, in cui rientrano tutte queste mitologie, con ciò che non è ancora stato spiegato. Quindi quando Polidoro dice la mia ambizione sarebbe quello un giorno di incontrarmi con l'inspiegabile, denuncia una frustrazione a cui sarà destinato inevitabilmente, perché procedendo con l'atteggiamento scettico e razionale della scienza non può che considerare l'inspiegabile semplicemente come ciò che non è ancora stato spiegato. In questo equivoco credulità e cialtroneria continueranno a sopravvivere andando a insufflare i sogni di persone che purtroppo sono troppo spesso vittime di queste narrazioni. Che dice Polidoro? Il filosofo della scienza l'accusa di integralismo scientista. No, per carità, siamo anche amici, ci mancherebbe. No, sono d'accordo con lui, non volevo dire che speravo un giorno di trovare un autentico fenomeno paranormale, quanto piuttosto spero un giorno io di trovare... Sì, invece vorrei vederlo. Sarebbe bello, ma è vero come dice Stefano Morigi, cioè che quando si trova ovviamente ha una spiegazione, non è più inspiegabile, e poteva essere inspiegato. Quello che mi piacerebbe trovare è magari una persona che realmente sa fare quello che promette. Di saper fare, che sia appunto leggere il pensiero o spostare un oggetto senza toccarlo, e che non lo faccia con facoltà paranormali, lo faccia almeno con qualche altro sistema, ma lo faccia. Questo è un po' il problema, non siamo ancora riusciti a trovarne uno che fa quello che promette. Sento parlare svedese alle sue spalle, ma ci sono dei signori vestiti di nero che la stanno circondando, stanno trascinando via, non capisco come mai. Io invece me lo spiego. Gianluca, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Buongiorno. I Men in Black stanno portando via Polidoro, però vediamo. Fanno bene, perché io ho la sensazione che lui e quelli del CICAP vengano pagati per tessere le teorie della cospirazione, o comunque, cioè, mi sembra che veramente loro, non so, ma sono da anni, non è da ora, che cercano sempre di smontare qualsiasi cosa. Sì, ma non lo negano, lo fanno a luce del sole, è il loro divertimento. No, ma chiaro, però cioè, la cosa che mi fa un po', voglio dire, non so se a volte mi fa ridere, a volte mi fa un po' arrabbiare, cioè, quando c'è qualcosa di inspiegabile bisogna per forza sempre trovare una spiegazione a tutto, ma cioè, diamoci a volte per vinti, no? Cioè, se non si riesce a trovare una spiegazione, si troverà un giorno forse, poi se non la troveremo, pazienza. Voglio dire, prima... quando parliamo dei guaritori filippini, le faccio un esempio, che mi ricordo per tutti gli anni 70, c'era questa cosa, chi stava male veramente vuole andare nelle Filippine a farsi infilare le mani nella pancia, c'erano questi signori paffuti che tirano fuori le budella, che poi abbiamo scoperto, grazie a signori come Polidoro, che tirano fuori le budella di pollo da delle pance pingui, alimentando viaggi di speranza, forse è bene che qualcuno spieghi queste cose qua, no? Però ecco, c'è anche da dire una cosa, secondo me, che purtroppo si cade spesso nel generalizzare, nel confondere i cialtroni, di cui è pieno il mondo, ahi noi, con fenomeni che effettivamente dovrebbero lasciare un punto interrogativo. Prima Polidori parlava dei cerchi nel grano, no? I cerchi nel grano non si può liquidare dicendo che c'erano due ometti di 70 anni che andavano la notte a divertirsi a fare cerchi. Quindi lei ci crede? Ma allora no, io mi pongo una domanda, non ho una risposta, ma rimango col punto interrogativo. Ma Polidori sa benissimo che ci sono decine di libri di scienziati, anche ne cito uno, Michael Heseman è uno, ne ha scritti due o tre di libri sui cerchi. Cioè, ci sono delle cose effettivamente inspiegabili, le frequenze estremamente basse che si registrano all'interno dei cerchi, i cerchi, non tutti ovviamente, tantissimi sono dei falsi. Quindi secondo lei esiste una fetta, come sempre nelle realtà umane o lambite dagli uomini, una fetta di inspiegabile, anche quando noi abbiamo, Polidoro ha detto semplicemente, io ho scoperto dei ragazzi che l'hanno fatto, ci hanno fatto vedere come si fa e l'abbiamo fatto anche noi. Ma questo non esclude che in una parte sconosciuta dell'universo esistano persone che fanno cerchi del grano per altri tipi di motivi. Noi ci sentiamo fra un istante, dopo le informazioni per il traffico, in questa avvincente trasmissione sulle nostre credenze, a cui siamo più tenacemente attanagliati. Despertamos vos y yo, y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Bella, bella, bella, mi piace risentire la sigla per la seconda volta, mai ne sarei pago, mai ne sarei soddisfatto. Andrea, racconti con calma e con delicatezza, sapendo che ci sono delle orecchie sensibili e impressionabili all'ascolto, la sua esperienza paranormale. Ma sono io? Sì, lei, certo. Allora, niente, mi è successo questo, ero in ufficio, collegato a internet, non stavo toccando il PC, quindi... Non ho toccato erroneamente qualche link, magari di qualche... E niente, ho aperto avevo una lattina di Coca-Cola, casualmente, tra l'altro, l'ho aperta e stranamente si è aperta l'home page della Coca-Cola. Allora io, cioè, insomma, credo può essere anche una semplice coincidenza, ma... Insomma, mi sembra anche strano. Io ma ha tentato la prova con una lattina di Fanta, se succede la stessa? No, poi ne avevo un'altra lattina, ne ho aperto un'altra. Sempre Coca-Cola? avanti, però stavolta non è funzionato, non so, magari era, non lo so. Quindi lei è stato lambito per un istante brevissimo dal morso del paranormale, è rimasto sconcertato? Ah, ma secondo me probabilmente c'è qualche frequenza, non so, nell'apertura della linguetta magari si genera una frequenza che va probabilmente anche, che ne so. No, lei sta citando una proposta di marketing virale molto avanzato. Cioè, se loro riuscissero a fare in modo che staccando la linguetta della lattina, esatto, si sviluppasse una frequenza capace, ma attraverso quale porta però potrebbe muovere allora, Linux? Tra l'altro, premessa, io utilizzo Linux, quindi diciamo sono anche abbastanza esente da vari spyware, virus vari, insomma, dei quali dico, non uso neanche antivirus. Per cui no, vorrei capire come una frequenza sonora proprio possa muovere un link. Lo dovrebbe spiegare Polidoro, magari, non so. Cioè, ci dovrebbe essere un'interfaccia anche nel suo PC capace di insomma, cogliere... il wireless funziona con delle onde e alla fine, voglio dire, non è che... A lei va un collegato... Ah, ecco, Io utilizzo un sistema wireless, quindi voglio dire, può anche essere, non lo so adesso. Ma vediamo, provate tutti a aprire delle lattine davanti al PC. No, se ci fossero due, però ho provato con quelle due che avevo, ho dovuto anche berle, tra l'altro, con le conseguenze. Comunque, io ho la bottiglia d'acqua minerale, sto provando col tappo di plastica, ma non succede nulla. Però potrebbe essere anche un'idea, giustamente, di marketing o di comunque. Va bene, grazie. Come vede, anche da ciò che viene considerato detestabile per il nostro spirito razionale possono venire razionalmente delle idee molto importanti. 12 ottobre 1969. A Detroit il disc jockey Russ Gibb riceve una telefonata anonima. Una voce maschile gli dice che Paul McCartney sarebbe morto in un incidente stradale nel 1965 e che dopo averlo sostituito con un sosia, tale William Campbell, i tre membri superstiti del gruppo, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, avrebbero cominciato a nascondere nei loro dischi dei segnali inquietanti. La voce anonima consiglia poi a Gibb di guardare meglio certe copertine dei dischi e di ascoltare con attenzione alcune canzoni. Nella celebre Eleanor Rigby si parlerà di un prete, padre McKenzie, che prepara il sermone per una cerimonia a cui nessuno assisterà. Un riferimento al fatto che McCartney fu sepolto in gran segreto? La copertina del celebre Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band è un'esplosione di colori e mostra quelle che Ringo Starr definì le persone che amiamo e ammiriamo. Tra questi c'era il mago satanista Aleister Crowley. Nella foto principale, i Beatles hanno ai propri piedi una specie di tomba adornata da fiori gialli posti a forma di chitarra basso, lo strumento suonato da McCartney. Sulla divisa, McCartney porta un distintivo con la sigla OPD, sigla che indicherebbe una persona dichiarata ufficialmente morta, officially pronounced dead. Non basta. Appoggiando uno specchio perpendicolarmente sulla gran cassa, tra le parole Lonely e Hearts comparirebbe la scritta He died. Lui è morto. Certo, io ho un peso sulla coscienza. Penso che per 2 anni vi ho regalato magliette La Passione, ho scritto La Passione si sente, che curavano malattie, ridavano vigore a rapporti coniugali, salvavano la vita a poveri disgraziati, hanno fatto i miracoli più improbabili, e anch'io forse in parte per un gioco, nella mia inconsapevolezza, ho creato il fiorire di una leggenda metropolitana, quella della rossa maglietta La Passione. Non rimaste veramente pochissime, le tengo chiuse in cassaforte, ho quasi timore di tirarle fuori e chissà se un domani le darò a qualche fortunato. Salve. Buongiorno. Ha una camera per stanotte? Una stanza? Sì. Con 2 letti. Così ci avviammo lungo le scale e raggiungemmo la camera che ci aveva assegnato. Entrammo e notammo che c'era un odore orribile. Decisero di andare a cena lasciando aperte le finestre della camera, ma al loro ritorno c'era ancora quella puzza insopportabile. Questa è un'altra leggenda metropolitana del morto nascosto sotto il letto. Ci sono meravigliose telefonate in attesa, ma Stefano Morigi, proprio in conclusione, negli ultimi 30 secondi, a me ha molto sconcertato la telefonata della fiducia nel miracolo della scienza di quel signore lì che pensava che la frequenza latina mettesse il link della Coca-Cola. sconcerta perché era persona che, da quanto diceva, mostrava una qualche competenza con gli programmatore di Linux, cioè della tecnologia. Questo significa, io ho molti amici, per esempio, ingegneri che hanno competenze analoghe, ma che sono vittime di questa dimensione del prodigioso in maniera addirittura imbarazzante. Significa che una competenza specifica non corrisponde a quell'educazione al linguaggio della scienza che, a mio parere, è una forma di educazione civica. Consentimi di aggiungere una cosa. Nel 2005 un filosofo americano che si chiama Frankfurt propose una distinzione discutibile ma a mio parere pregnante all'interno di questo discorso tra chi dice la verità e quindi dà importanza ai fatti e a quei fatti attendibili si attiene, tra il mentitore che comunque dà importanza alla verità e consapevolmente se ne allontana e tra colui che dice, è un termine filosofico quindi consentimelo, stronzate. Le stronzate, chi produce stronzate di fatto è chi ha una narrazione che tenta di sostenere con dei fatti, ma i fatti sostengono, è la narrazione che sostiene i fatti e non viceversa. Ecco, questo è il vero pericolo. I produttori di stronzate sono pericolosi e quando una televisione di Stato, per esempio, produce trasmissioni pseudoscientifiche che propongono e propinano stronzate, qua è il pericolo di fronte al quale non bisognerebbe arrendersi. Io mi cospargo il capo di cenere. Silvia Brunelli, che è anche una nota biologa, mi ricorda che lanciai il mito di San Pippone, protettore delle mie ascoltatrici, e anche questa penso che sia una stronzata. Ringrazio Fabrizio Intonti e Paolo Corleoni. Vi ricordo, giovedì e venerdì sarò alla Fiera del Libro a Torino. Lì avrete modo di raccontare tutte le stronzate che volete, perché le vostre vite saranno trasformate in letteratura. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22.